Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Seconda tappa del nostro percorso annuale nel mondo della scuola, oggi con un professore, Adriano Morandin dell'UCIM. Ben trovato, ben ritrovato. Grazie, grazie. E ci vediamo una volta, due all'anno, ci vediamo qui per le nostre trasmissioni. Eccoci qui per parlare, e sarà un percorso interessante anche per qualcuno, perché è quasi di mezza età come me, un percorso anche all'indietro in ciò che si faceva a scuola quando si studiava storia ed educazione civica, ma anche un percorso in avanti. In effetti il tema che ci proponiamo è quello della pace e della cittadinanza all'interno della scuola. Di pace, insomma, ci parlano i papi da molto tempo. Un mese fa meno si è pregato certo, per iniziativa di Papa Francesco, anche in questi giorni con la sua presenza ad Assisi. La pace alternata alle guerre, perché poi chi ha studiato storia, un tuo studente proprio diceva, no, che i libri di storia sono pieni di guerre. Un mio studente, mi ricordo benissimo, ancora una ventina d'anni fa, in seconda media, stavamo parlando di Cristoforo Colombo, delle grandi scoperte. Quello è stato, come dire, una parentesi nel susseguirsi di tutte le vicende medievali, delle lotte che c'erano per le investiture, le lotte fra comuni, eccetera. E finalmente ha detto: c'è un capitolo che non parla di guerre. E quello mi ha fatto un po' capire, cioè, lo sapevo già, però mi ha messo come la pulce nell'orecchio, per dire, insomma, che la storia che noi abbiamo studiato a scuola, che stiamo ancora insegnando, perché è una delle materie, io direi che è anche una delle materie in qualche modo sottovalutata a scuola, perché alle volte si dice: no, là basta studiare e fare una carrellata di avvenimenti e fissarli, ma non è così semplice. Non è solo memorizzare, ma anche capire che cosa, capire le cause, le conseguenze, anche perché nella storia, alcuni fatti storici sono, hanno un po' di imprevedibilità, perché chi prevedeva, per esempio, tanto per dirne uno, la vittoria così fulminea di Garibaldi per la spedizione dei 1000 a Calatafimi? Io ho letto proprio recentemente alcuni testi di Giuseppe Cesare Abba, che ha descritto la spedizione dei 1000, e insomma lo ha detto chiaro e tondo: è stato un miracolo. Perché? Perché erano 1000-1100 al massimo, e l'esercito borbonico chiaramente era molto più numeroso, era più organizzato, probabilmente eccetera. Non si aspettava neanche l'esercito borbonico. Insomma, lui alla fine di tutto il suo discorso ha detto: la vittoria è stato un miracolo. Allora, per dire questo, che sì, la storia ha anche una certa razionalità, perché gli avvenimenti vengono, come dire, programmati. Le guerre non è le spedizioni, le guerre, insomma, non è che sia che si faccia le cose così dall'oggi al domani. Però anche se noi studiamo e diciamo le cause degli avvenimenti, le concatenazioni, diciamo i risvolti con alleanze varie, alle volte possono cambiare, e al momento l'imprevedibilità anche dei fatti storici. Ma questo per dire che la storia è una scienza complessa. Tanto è vero che inizialmente nei licei la storia era collegata, anzi l'insegnamento della storia era affidato ai professori di filosofia. Cioè, nelle scuole superiori, diciamo classiche, perché fino al periodo dei gesuiti, 700, 800, fino a metà 900 si può dire, c'era solo il liceo classico come scuola superiore, quindi c'era il tentativo di ragioneria, eccetera. Però la storia, diciamo in modo sistematico e scientifico, in un certo senso, veniva insegnata dal professore di filosofia. Poi negli istituti, negli altri istituti, tipo ragioneria, magistrali, eccetera, era affidata al professore di lettere, perché si pensava che abbinarla un po' con la letteratura, perché anche la letteratura ha un risvolto certo, filosofico. Quindi non è che sia una scienza solo da studiare, da imparare a memoria alcune date, perché si impara a memoria qualcosa così, e posticcio, dopo 8 giorni dopo l'interrogazione va tutto in fumo, per ecco, dire, no. C'è anche un altro aspetto, abbiamo detto la guerra, certo, la pace non sempre è pace vera, nel senso che magari è semplicemente assenza di guerra, è tregua magari, è una no? tregua momentanea, motivo motivo per ricordare anche che l'Unione Europea ha ricevuto il Nobel per la pace per il periodo più lungo di assenza di conflitti nel nostro continente, certo. Che speriamo continui evidentemente per moltissimo tempo. Perché finché si fa, diciamo così, qualche guerra fredda, chiamiamola così, qualche battaglia di minacce, però non si arriva al fatto concreto, insomma. Sì, le nostre generazioni, insomma, non hanno vissuto direttamente, certo, il conflitto bellico, almeno qui direttamente. Quindi sì, i trattati di pace hanno proprio, grandi trattati di pace, ecco, tanto per tornare al discorso della guerra, che è tutto un susseguirsi di guerre, i grandi trattati di pace hanno segnato delle pause finalmente per rimettere un po' la situazione, perché se pensiamo anche dopo la Rivoluzione Francese, per esempio, dopo le guerre di successione che abbiamo studiato, insomma, hanno segnato dei momenti in cui finalmente i popoli in qualche modo hanno respirato, perché bisogna anche dire una cosa, che con tutti i difetti che possono avere anche, che possiamo avere anche al giorno d'oggi con questi sistemi democratici e queste organizzazioni delle Nazioni Unite, questi stati dell'Europa, eccetera, che diciamo così, sembra sempre che ci sia qualche motivo, però con il dialogo e con la diplomazia, e questo è merito di tante persone, ma io dico che è anche merito di tutta questa tensione che c'è stata anche dal mondo cristiano e specialmente dai papi del Novecento, ecco, tanto per dire, parlavamo prima, però pensiamo ancora dal tempo di Pio X con la Prima Guerra Mondiale e con Benedetto XV, insomma tutto un susseguirsi, certo che non si è riusciti a imparare. È proprio dall'imparare ed è una citazione di Cicerone, ripartiamo tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto, penso a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te, che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Via da noi, lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, una mini lezione, insomma, di un po' di storia, un po' di educazione civica, come si chiamava una volta, col professor Adriano Morandin. Dicevo prima, ripartiamo da una citazione ciceroniana, Historia Magistra Vitae, la mettiamo col punto di domanda, cioè la storia è maestra di vita, visti gli errori che poi si ripetono, direi di no. Questo è un grosso problema, anche filosofico. Prima parlavamo di filosofia, di giudizio, di momento critico. Dovrebbe essere maestro di vita, questo è il punto. Cicerone, anche lui la vedeva in questa prospettiva, io penso, perché se noi guardiamo i fatti storici, le guerre purtroppo si ripetono, però si ripetono, come diceva anche l'altro Giambattista Vico, i ricorsi della storia. Sembra che l'uomo non abbia imparato niente, però noi diciamo che parlavo anche in un recente corso di aggiornamento, proprio recente no, ma insomma una decina d'anni fa facevamo un corso di aggiornamento con gli alpini, ecco, quindi come UCIM e come professori, alcuni erano universitari, dicevamo insomma sì, dovrebbe essere maestra di vita anche se spesso non lo è, però questa tensione deve continuare, perché se noi guardiamo dall'antichità o il medioevo o anche 3-4 secoli fa in Italia e in Europa, gli omicidi, i reati, i furti, non è che fossero cose così sporadiche, basta leggere I Promessi Sposi, tanto per non andare lontano, quindi no. Anche lì abbiamo visto come veniva trattata la popolazione, come si comportavano e come i giudizi erano sommari. E quindi possiamo dire che nel lungo periodo possiamo anche immaginare che la vita delle nazioni sia migliorata, anche se non sempre lo possiamo dare questo sguardo, perché adesso ci sono magari metodi più subdoli di sopraffazione o di sfruttamento, perché parlavo recentemente anche con alcuni colleghi della schiavitù, per esempio, no? La servitù della gleba oppure la schiavitù. Adesso si può dire che sia sconfitta, però non lo possiamo dire in maniera totale, anche se le leggi lo dicono, ma in molti stati d'Africa ancora esiste, oppure anche se non esiste nella legislazione lo vediamo nella realtà, come vengono trattate le popolazioni, insomma persone che lavorano un giorno intero per 50 centesimi o per un euro, insomma questi veramente sono sfruttamenti, oppure persone che arrivano a Lampedusa e vengono trattate come vengono trattate in altri porti, insomma qui... il Papa, ma non solo il Papa, insomma, ha detto chiaramente qui la globalizzazione, se ha portato benefici dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista così degli scambi internazionali, però ha portato dei danni gravissimi dal punto di vista umano, perché sembra che contano di più i soldi, conta di più il guadagno, spesso il guadagno facile, che non la vita e la dignità delle persone. Quindi anche questa è una forma di schiavitù e di sfruttamento, insomma, per le persone. Quindi non possiamo dire che la storia così è maestra di vita in generale. Questo è un obiettivo sempre da raggiungere. Posso dire, faccio il cattivo, ma spesso succede che magari la maestra parla, ma chi deve ascoltare non ascolta. Questo da chiaro. Esperienza di professore e di docente. A proposito di scuola, appunto, questo tema della pace poi viene anche declinato e proposto all'interno dei programmi scolastici, dei programmi ministeriali, con l'insegnamento della storia, evidentemente, ma anche con quella che una volta si chiamava educazione civica, adesso si chiama costituzione e cittadinanza. Sì, sì. Adesso l'educazione civica era entrata ufficialmente nel 1958, era allora ministro della pubblica istruzione Aldo Moro, e proseguita, però veniva insegnata in maniera abbastanza sporadica, oppure dipendeva un po' dagli insegnanti, oppure io ricordo, insomma, anni 70 e 80 di aver comprato sì il libro di educazione civica, ma di non averlo forse quasi mai aperto se non per interesse personale. Certo, sì, questo io ricordo di aver fatto educazione civica tanto per sì, a scuola io cercavo di farla almeno un'ora ogni 15 giorni, oppure di tentare qualche motivo di partecipazione con piccole assemblee di classe per eleggere il caposclasse, per così simulare un consiglio comunale, una piccola associazione, eccetera. E ricordo di averla fatta anche per gli alunni che non seguivano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Allora, non so, con più di un preside sono stato d'accordo così che facevo educazione alla cittadinanza, educazione alla convivenza civile e democratica, e sono tentativi per migliorare un po' per dare anche un input per un successivo per la scuola, perché la disaffezione alla politica comincia dai banchi di scuola, noi dicevamo, però dopo ci sono tanti motivi che portano alla disaffezione alla politica. Però se partiamo col presupposto che la politica è tutto un imbroglio, è tutta una cosa sporca, è tutto un allora veramente non riusciamo a costruire, perché è chiaro che la democrazia costa, e questo è una cosa, la vita democratica ha i suoi costi anche di tempo, di pazienza, di sacrificio e anche di sapere rinunciare a qualche privilegio oppure o qualche idea propria, qualche compromesso alla fine è necessario, pur senza magari rinunciare ai propri ideali. Seconda pausa e poi ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola. Dal mondo della scuola. Never. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di pace e cittadinanza, toccando un po' vari temi e vari spunti che anche all'interno delle aule scolastiche vengono affrontati con i programmi dalle varie classi, fin dalle elementari, anzi non si chiamano più elementari, si chiama scuola primaria. Io sì. Uso un linguaggio vecchio e antiquato, non sono... anzi qualcuno pensa anche di cominciare dalla scuola all'infanzia. Sì, è un segno positivo. Significa certamente, Adriano, insegnare come sono fatte le istituzioni, ma significa poi anche concretamente far vivere la stessa aula scolastica, è una società in piccolo, insomma. Certo, anche questo è un... alcuni anni fa si era coniato un termine che forse qualcuno non ha sentito, il glocale, cioè globale e locale, cioè un occhio al vicino e un occhio lontano. Ecco, questo penso sia una buona abitudine. Quindi avere l'attenzione al piccolo gruppo, alle amicizie, tenersi vicini, e il globale, perché i problemi non sono scollegati, cioè noi risentiamo se negli Stati Uniti c'è una crisi economica, oppure se c'è una crisi di valori, oppure se ci sono insomma ci risentiamo moltissimo. Quindi dobbiamo avere un occhio al vicino e un occhio lontano, come si suol dire. Mi viene in mente in questo momento, e credo che sia molto pertinente, pensavo proprio stamattina mentre mi preparavo alcune cosette così, le nostre parrocchie hanno questa buona abitudine generalmente di pensare sia al vicino sia al lontano, perché vengono fatte delle raccolte, sì, vado subito nel punto di concreto, vista certo. È concreto, delle raccolte per problemi del riscaldamento, di restauro, di affreschi eccetera eccetera, però una volta al mese, ogni due mesi, insomma, nei momenti di necessità vengono ricordati anche i problemi, le necessità del terzo mondo, lo chiamiamo noi, o del mondo in via di sviluppo, o di coloro che hanno subito terremoti, inondazioni. Quindi la parrocchia è già un tentativo di mettere in atto questa idea, insomma. Quindi questa idea coniuga sia la solidarietà, la parrocchia coniuga, diciamo, mette assieme sia il discorso della solidarietà, che viene richiamato molto bene dal Papa, insomma, e viene richiamato per esempio dalla comunità di Sant'Egidio, l'incontro delle grandi religioni del mondo, insomma tutti questi discorsi che abbiamo tante volte sentito, e poi mette in moto anche un discorso di sussidiarietà. Sussidiarietà vuol dire cercare di risolvere i problemi diciamo vicini, senza aspettarsi tutto dall'alto, cioè mettersi sintonia, in armonia, per darsi una mano, per risolvere piccoli problemi, tipo le scuole materne, le scuole dell'infanzia, tipo le associazioni sportive, tipo gli oratori, tipo alcune associazioni culturali, ricreative, che svolgono un ruolo importante nelle nostre comunità, perché ci abituano a star vicini, perché uno dei guai della globalizzazione è proprio quello di renderci astratti, cioè di tenerci lontani, cioè anonimi, quasi è una società liquida, qualcuno diceva, cioè dove non si conosce, addirittura accanto in alcune grandi città, accanto ai ghetti, diciamo così, dei poveri, accanto alle baraccopoli, accanto oppure a un chilometro o due di distanza, sorgono i ghetti dei ricchi, qualcuno dice, quelle grandi ville con siepi altissime, con custodia, con allarmi, con sistemi di guardia, in modo tale che c'è uno sbarramento, quasi un separarsi dalla realtà, insomma, quindi un divario enorme, ecco. Quindi le piccole comunità, le parrocchie, i comuni eccetera, hanno questo scopo di avvicinare e tenere unite le persone con le varie associazioni di volontariato che conosciamo benissimo, Avis, Aido, Caritas, tanto per nominare quelle più diffuse, insomma. Quindi questa attività, diciamo, di partecipazione gratuita, volontaria, tutte le persone che vanno a fare volontariato, assistenza in ospedale eccetera, insomma, queste persone hanno questo ruolo di di tenere questo anello di solidarietà e di amicizia che è fondamentale per la vita, che siano credenti o non credenti. Qui viene fuori tutto l'altro, certo, discorso del Papa attuale, famosi pensanti e non pensanti, come diceva Cardinale Martini, oppure il dialogo che c'è stato, che c'è tuttora, fra il Papa e Scalfari, tanto per dire che il dibattito, insomma, sono più le cose che ci avvicinano che quelle che ci allontanano, diceva Papa Giovanni, tanto per tornare un altro personaggio, insomma, forte della storia della Chiesa, insomma. Ecco, e anche all'interno della scuola, ovviamente, tutti questi concetti sono applicabili, insomma, a livello di partecipazione, penso agli organi collegiali, quindi il ruolo dei genitori, certo, gli studenti, dove nella scuola media superiore sono rappresentanti, scelgono la propria voce per esprimersi. C'era un forte entusiasmo 30-35 anni fa, all'inizio. Io ero giovane, ero anche all'inizio, adesso sono in pensione, ma mi ricordo che c'era un forte entusiasmo, alle volte anche come dire, troppe aspettative, si pensava di cambiare il mondo partecipando alle attività della scuola. Bisognerebbe partire, come poi qualche santo ha detto, San Francesco, per citarlo ancora, partire da se stessi prima, certo, certo, di cambiare, quindi, il mondo. Però per dire che era un tentativo, ed è tuttora un tentativo, di relazionare, di mettere assieme scuola e famiglia, il solito discorso che io sento da quando ero bambino. No, insomma, okay, scuola e famiglia, per questa alleanza educativa, insomma, ecco, l'educazione è sempre il problema, poi la prevenzione del disagio, tanto per dare all'attualità, per i problemi che ci sono attuali, insomma, la prevenzione del bullismo e cose, okay, di questo tipo. I tempi sono purtroppo ristretti, quindi sono temi questi che abbiamo messo sul tappeto, che riprenderemo anche con te, con altri ospiti, nel corso del nostro percorso. Grazie a Adriano Morandi per essere stato con noi. Grazie a voi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.